Ad alta voce, Ferdinando Bruni legge L'onda dell'incrociatore di Pierantonio Quarantotti Gambini. Con Eneo quei giorni Ario si incontrò un'altra volta da solo. «Di», lo interrogò il campione ritto dinanzi a lui, lisciandosi le cosce, «quel pezzo di donna che si vede in calzoni sul tuo pontone, chi è?» «Ah, è tua madre», fece poi, «volevo ben dire». Rientrò nella canottiera e si udì lo scroscio della doccia. Quando riapparve, gli sorrise, come con loro ragazzi non faceva mai. Infine andò a stendersi sulla zattera e di là, mentre con cura si abbassava sul ventre le mutandine per prendere meglio il sole, domandò: «E tuo padre? M'hai detto che è in America?» «Sì», rispose Ario, che cominciava a sentire un certo disagio. «Ed è stabile laggiù?» «Sì, credo. No, forse ritorna», si corresse subito arrossendo e volle sostenere con fermezza lo sguardo di Eneo. Ma quello, tranquillo, stava contemplandosi i piedi, di cui muoveva come per esercizio gli alluci. Ari ormai trascorreva quasi tutta la giornata alla Virtus. Sul suo pontone non occorreva che stesse, perché sua madre aveva ripreso quell'estate a occuparsi lei delle barche. In un altro momento ciò gli sarebbe seccato, ma adesso gli faceva piacere essere libero per correre sulla canottiera di Berto. Lì, oltre il resto, c'era bisogno del suo aiuto. Berto, nei mesi estivi, quando il pontone pullulava di vogatori, in gran parte nuove reclute che non sapevano curare le imbarcazioni, non riusciva, specie nei giorni di festa, a far tutto da solo. E non poteva contare né su Lidia, che vagava a tutte le ore per le rive e per i moli, né sul padre, che s'ubriacava sempre più spesso e rincasava all'alba. Ario lo aiutava. Gli piaceva, a lui nato fra le barche a vela, prendere confidenza con le iole e coi canottieri, che erano quasi tutti giovani intorno ai 20 anni. E gli piaceva poi avere occasione di incontrarsi con Eneo, che veniva di solito nelle ore in cui il pontone era deserto. Ma gli accadeva da qualche tempo di non poter stare con lui quasi mai. Un po' perché Berto cercava in quei momenti di allontanarlo, e un po' perché sua madre lo mandava una volta qua e una volta là, sulle rive e nel centro, a fare le spese che prima faceva lei. Un giorno, che ella lo richiamò proprio quando era arrivato Eneo, egli domandò, rosso dal dispetto, a Berto: «Se mi manda a fare qualcosa in città, non potrebbe andarci invece Lidia?» Berto lasciò cadere il bugliolo di tela che aveva in mano, spruzzandosi d'acqua tutte le gambe, e lo guardò con gli occhi spalancati. «Ma non la conosci?» esclamò. «Non sai com'è diventata?» «Com'è diventata?» domandò Ario e rimase suo malgrado col fiato sospeso. «Permalosa!» sentenziò Berto e raccolse il bugliolo quasi avesse detto qualcosa di definitivo. Ci fu una pausa. «Ma che vuol dire?» insistette Ario. Berto alzò la spalla come se quel discorso lo annoiasse. «Dico che si dà grandi arie, vuole essere libera e ogni cosa la secca». Tacque qualche istante, curvo sull'acqua cui attingeva col bugliolo. Infine si rialzò e guardò Ario in viso. «Lo sai», disse, «che si dà il rosso alle labbra». Alcuni giorni dopo, egli si trovava come al solito sul pontone della Virtus, su uno dei ballatoi, intento a pulire con la sabbia un paio di maschette, quando Lidia, uscita da una porticina che si apriva da quella parte, lo chiamò sottovoce. «Vieni, vieni presto a vedere!» E lo afferrò per la mano e lo guidò. Si avanzò in punta di piedi, con in petto un'agitazione strana, accresciuta da un senso di disagio e insieme di piacere che gli veniva dal contatto con la mano piccola e imperiosa di Lidia. Appena varcata la porticina, svoltarono e si trovarono in un andito buio in fondo al quale s'udiva uno scroscio d'acqua. Sempre tenendolo per mano, Lidia gli sussurrò di appiattirsi contro la parete. In quella sopraggiunse Berto. «Ora vedrete», disse Lidia. E attesero tutti e tre, trattenendo il fiato, sebbene lo scroscio coprisse ogni rumore. Fermo al buio, mentre il cuore gli batteva alto, Ario cominciò a ritrovarsi. Quella vicina era la doccia dei canottieri e l'andito ove si trovavano sboccava nel ripostiglio, una specie di piazzola cieca retrostante alla doccia che serviva ai soci per lasciarvi gli accappatoi e gli asciugamani. Lo scroscio cessò di colpo. Poi, quasi di schianto, si aperse un uscio. Nella luce che illuminò d'improvviso il ripostiglio, si distinse un braccio, possente, che si sporse, cercò e si ritrasse con un asciugamano. Non passò un istante e si vide nel vano dell'uscio una figura atletica che si strofinava con l'asciugamano volgendo loro il dorso. Era Eneo, senza mutandine. L'acqua gli scorreva ancora di dosso a rivoli, ne era tutto lucente e appariva strano il contrasto tra la lucentezza bronzea di tutto il corpo e quella bianca, quasi azzurrina, delle natiche. «Andiamo via!» stava per dire Ario, nel timore che Eneo si voltasse e li scorgesse, e fece per muoversi, ma la mano di Lidia lo trattenne. «Aspetta!» Nello stesso istante, quasi avesse percepito quel bisbiglio, Eneo si voltò tralasciando di strofinarsi e stette a scrutare immobile verso di loro. Ario, suo malgrado, non riuscì a muoversi. Visto così, ritto in piedi e nudo, Eneo era superbo. Mentre lo guardava, sentì la mano di Lidia stringere la sua sempre più forte e palpitare due o tre volte. A un tratto Eneo si mosse e, infilato un accappatoio, venne verso di loro. Si udirono, nel silenzio, i suoi piedi bagnati schioccare sull'assito. Era serio, quasi severo. Serrava le mascelle e gli si distinguevano i muscoli tesi sotto le guance. I suoi occhi apparivano lustri sotto la fronte accigliata. «Mascalzoni», disse, e la sua voce risuonò stranamente, come trattenuta e un po' roca. «Che cosa c'è da guardare?» I tre ragazzi non rispondevano. Stretti l'uno all'altro, continuavano a fissarlo, muti. «Eh?» fece Eneo facendosi più vicino, e nello stesso istante fece scattare la luce. «Che c'è da guardare?» Si fermò. Poggiò le grandi mani ai fianchi, lasciando aperto l'accappatoio, e li fissava serio, quasi cupo. «Cosa avevate da guardare, eh?» ripeteva con quella voce stranamente bassa, roca. Poi si fece ancora più vicino, sino a piantarsi lì davanti. I tre ragazzi, sempre stretti spalla a spalla, udivano l'uno il respiro dell'altro. «Eh? Che cosa stavate guardando?» ripeteva quella voce. Ario sentì tutto quel tempo la mano di Lidia premere la sua e sussultare. In un momento che si volse verso di lei, la vide guardare Eneo, pallida, come persa, con due pupille dilatate e profonde, e ne restò improvvisamente sconvolto. Cadde l'impressione torpida e calda che avevano provato sino ad allora e sentì, mentre s'accorgeva di essere sudato, una breve angoscia. Dopo quell'avventura, di cui nessuno dei tre fece mai parola e di cui tacque anche Eneo, Ario per lungo tempo non ebbe più occasione di trovarsi con Lidia. Ella adesso non stava quasi mai sulla canottiera. «È sempre in giro», diceva Berto, «e di sera va al cine a vedere i film di Hollywood». Dal suo pontone, Ario talvolta la scorgeva alla finestra di rimpetto mentre si tingeva le labbra e si ravviava i capelli. La incontrò un pomeriggio sul ballatoio. Era vestita come per uscire, con un abitino celeste, e stava seduta lì sull'assito quasi fosse in attesa, dondolando sull'acqua le gambe brune. Ario le si fermò vicino. Lydia alzò il capo, ma lo guardò appena, con indifferenza più che con disdegno, come può fare con un ragazzo una persona già adulta. «Oh!» si ravvivò Ario all'improvviso. «Hai un paio di scarpette nuove. Fai vedere!» Tralasciando di dondolare le gambe, le sollevò unite e le tenne sospese mostrando le scarpette, che erano bianche di tela. «Fai la signorina, eh?» rise Ario. «Non corri più scalza!» Lydia riabbassò le gambe, tutte e due assieme, come le aveva sollevate. «È un regalo», disse. «Ma tu», esclamò dopo un po', alzando verso di lui uno sguardo serio, corrucciato, quasi risentito. «Lo sai che sei un bugiardo?» «No», si stupì. «Che bugie ti ho detto? Non ne dico mai». «Ah, non ne dici mai», sollevò il capo Lydia di scatto, smettendo di dondolare le gambe. «Allora è forse vero che tuo padre vi ha scritto e che non lavora più a San Francisco, ma a Nuova York e...» Ario la interruppe. «Sì, è vero», sussultò. Si sentiva pallido e stava per alzare la voce. «È vero», ripeté. «Ma che vai dicendo?» ribatté Lydia e riprese ad ondolare le gambe. «Se fosse vero, tutti lo saprebbero. La prima a dirlo sarebbe tua madre, che invece...» «Ma...» improvvisò Ario, tutto d'un fiato, come colto da un vortice. «È da poco che ci ha scritto, e la mamma», abbassò la voce, «non vuole ancora che si sappia». Lydia fermò di nuovo le gambe, rialzò il capo e i suoi occhi si fissarono vivi in quelli di Ario. «Ah!» disse abbassando anche lei la voce. «Ma raccontami», sussurrò, «che cosa vi scrive?» Ario si sentì arrossire. Aveva mentito ancora una volta e senza motivo, quasi tratto da una forza più grande di lui. E Lydia credeva. «Che cosa ci scrive?» rispose e guardò dinanzi a sé a occhi socchiusi, quasi osservasse più lontano la maretta che faceva sussultare gli scafi nel quadrilatero delle imbarcazioni da diporto. «Ci scrive», esitò, poi tutto a un tratto piantò gli occhi in viso a Lydia. «Ci scrive», disse, «che presto ritorna». I mesi seguenti era un autunno splendido. Egli prese un'ubriacatura di sole e di aria marina. Appena poteva, balzava in barca e dava al vento la vela. Era bello scivolar fuori dal mandracchio, tanto veloci e leggeri che nella manovra lo scafo sembrava fuggirgli via. E rasentare, inclinati sul bordo sino ad avere in faccia la frescura dell'acqua, il molo della lanterna. E poi il mare libero, i sobbalzi, gli spruzzi, le schiaffate dell'acqua a prua. Veniva con lui sempre più spesso anche Berto. Ad Ario piaceva condurlo con sé. Lì, in barca a vela, il padrone e anche il più capace era lui. Egli ospitava Berto e aveva sempre qualcosa da mostrargli o da insegnargli. Era come se fosse divenuto tutto a un tratto il maggiore dei due, come se Berto fosse il più giovane. Ma gli piaceva anche sempre di più uscire solo. Certe mattine, appena alzato, lo prendeva un'ansia lieta. Usciva sulla zattera, guardava l'acqua chiara e il sole che giocava sulla maretta e non riusciva a trattenersi. Prima che la mamma o qualche socio lo vedesse e lo chiamasse, scioglieva l'ormeggio, issava la vela e via. Usciva, tenendosi disteso sul pagliolo per non farsi scorgere, con una trepidazione in cuore, alta, quasi stesse compiendo chissà che. Poi, una volta fuori, ove nessuno poteva più vederlo, una gioia piena gli squillava in petto. Filava, stringendo la vela, come in regata, e spesso, tra mare e cielo, si metteva a cantare. «Mi prendi con te?» udì un mattino dalla zattera della Virtus, e prima ancora che rispondesse, Lydia era a bordo. Si rannicchiò a prua e guardava al largo coi capelli vivi nel vento. Per tutto il tempo che stette lì non disse quasi parola. Anche Ario taceva. Taceva e la guardava. Non riusciva più, con lei a bordo, a guardare lontano, sul mare. Stava accoccolata lì a prua come in vedetta. Ario la osservava e cercava di ricordare. L'aveva già veduta così, ma quando? Gli riapparivano cose vedute al cine, un'isola selvaggia, gli indigeni. Lydia aveva negli occhi e in tutta l'espressione qualcosa di avido e le vibravano le narici. Portò la barca lontano, al largo, ove non era mai stato. Si vedevano giù, lievi sopra l'azzurro, i promontori istriani. Cazzava la scotta facendo sbandare la barca e con piacere ascoltava crescere il gorgoglio dell'acqua, segno che si filava sempre di più. Portare, pensava, un giorno Lydia con me, come adesso, andare via. Si ricordò di quella gita a lungo. E stranamente non ne fece mai parola a Berto, né Lydia ne parlò ad alcuno. Tornò ancora in barca quell'anno, sinché durò la bella stagione. Ma era un'altra cosa adesso. E provava l'impressione, a momenti, di non essere solo, e gli occhi gli correvano a prua. Amava spingersi al largo e puntava sempre più spesso a sud, verso il mare aperto, nella direzione che prendono le navi salpando. A volte, invece, metteva all'improvviso la barca in bonaccia, lasciando fiottare la vela, e si buttava sul pagliolo. Supino, con gli occhi fermi nell'azzurro, seguiva a lungo, quasi senza pensieri, le nubi candide che ora si fondono e ora si sciolgono. Era ad alta voce con Ferdinando Bruni a leggere L'onda dell'incrociatore, il romanzo più noto di Pier Antonio Quarantotti Gambini, la sesta puntata. Ad alta voce è a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, la regia di Luigi Iavarone. In questa puntata le musiche erano Guitar 13 e Turn 13 dei Clogs, e sempre dei Clogs Capsburger, e poi The Space in Between degli Esmerin e Divisadero del Ballo. E ora vi ricordo ancora che le puntate dell'Alta Voce sono riascoltabili sul nuovo sito raiplayradio.it e